perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Maltempo esonda il Tanaro in Piemonte, i sindaci dicono sembra di essere tornati all'alluvione del 94, situazione difficile in Liguria, le previsioni il peggio dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Referendum il caso De Luca per il PD e le firme false nei 5 Stelle animano il dibattito, Berlusconi dice a Radio 24 il mio no è convinto, indifferente se Renzi resta oppure no. Al via l'assemblea del Monte dei Paschi di Siena, che deciderà anche sull'aumento di capitale, la fondazione decideremo se aderire solo dopo il 4 dicembre. Violenze e rabbia di migranti e profughi a Torino dopo il lancio di bombe carta contro le palazzine del villaggio olimpico, tensioni, la polizia interviene. È morto a 87 anni Vittorio Sermonti, scrittore, attore e regista, divenne celebre per le sue letture pubbliche della Divina Commedia di Dante. Calcio e coppe, oggi l'esame per le italiane in Europa League in campo Roma, Inter, Fiorentina e Sassuolo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il nostro contatto per gli sms e per WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece è quello per l'email. In apertura dunque parliamo del maltempo e delle alluvioni che stanno colpendo il nord Italia, lo faremo innanzitutto con le cronache dei nostri colleghi giornalisti e poi più avanti nel nostro giro per l'Italia andremo sul territorio a sentire anche i sindaci e gli amministratori locali per avere un quadro più preciso della situazione. Iniziamo dunque dal Piemonte, perché è là che è la situazione più critica, e andiamo con Filomena Greco. Filomena, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, così siamo proprio nella fase più critica, nella fase acuta della perturbazione che ormai da giorni, lo ricordo, sta interessando Piemonte e Liguria. La pioggia si è molto intensificata durante la mattinata di oggi, una pioggia battente che ha spinto la protezione civile a portare l'allerta meteo al livello più alto, il livello 3, con l'ARPA regionale che parla di valori cumulati di pioggia compresi tra i 150 e i 200 mm in sole 12 ore, quindi una situazione molto critica in peggioramento nelle prossime ore. A Torino e a Cuneo, come dicevate, il livello di allerta resta molto alto, la situazione più delicata naturalmente è quella relativa al livello dei fiumi, una situazione molto critica in provincia di Cuneo dove il Tanaro ha superato da ieri il livello di allarme e oggi ha raggiunto questa mattinata la quota di pericolo, quindi una situazione molto seria. Esondato Garessio, che è la città, è la cittadina più colpita in questo momento, drammatiche le testimonianze di questi minuti da parte dei sindaci di Garessio, di Ormea e di altri centri, proprio perché il Tanaro rappresenta un po' una minaccia per il territorio, come ha dimostrato l'alluvione del 1994. Ci sono delle situazioni simili, dicono i primi cittadini, e che aspettano insomma indicazioni come procedere e come soprattutto affrontare il pericolo imminente delle prossime ore. Decine i sindaci che hanno deciso fra ieri e oggi la chiusura delle scuole, almeno fino a sabato. Si inseguono poi gli appelli a chi lavora nell'area vicino al fiume o a chi vive nell'area vicino al fiume a lasciare i piani bassi delle case e a spostarsi nei piani alti. Si sta anche valutando la possibilità di evacuazioni in massa, per esempio nel centro di Garessio, quello più colpito. Resta critica anche la viabilità con la chiusura delle due statali che dal Cuneese portano verso la Liguria, quindi c'è anche un problema di isolamento per molti centri. È al lavoro il comitato di emergenza della protezione civile nella sede della prefettura di Cuneo, al lavoro anche a Torino. Nel torinese la situazione è meno drammatica che a Cuneo, ma resta comunque molto critica. Anche qui c'è il problema dei torrenti e dei fiumi che hanno superato il livello di allarme, che quindi stanno esondando, e anche nel torinese sono decine i sindaci che hanno deciso in queste ore la chiusura delle scuole proprio per limitare al massimo i movimenti della popolazione. A voi. E grazie a Filomena Greco per questo aggiornamento. Come si diceva, più avanti andremo proprio in queste zone e sentiremo proprio il sindaco di Garessio e il sindaco di Ormea, alcuni dei comuni che sono due tra i comuni più colpiti. Andiamo in Liguria nel frattempo, dove da quel che ci sembra di capire, Andrea Ferro, la parte più critica di questa perturbazione non è ancora arrivata a tutti gli effetti. Sì, buongiorno Simone. Sulla Liguria piove a scrosci intermittenti, a Genova raffiche di vento fortissime, ma cresce la preoccupazione in vista del peggioramento annunciato per le prossime ore dalla Protezione Civile, e lungo le valli del Ponente sale sempre più il livello dei torrenti che sgorgano dal Cuneese, dove, come abbiamo appena sentito, piove incessantemente da ore, ormai potremmo dire da giorni. A rischio il Centa, la Roscia, l'Argentina, e già ci si segnala qualche allagamento netto e qualche strada interrotta nella zona di Albenga. La statale del Colle di Nava è chiusa, come diceva poco fa anche la collega. Alla luce di questa situazione, per tutta la provincia di Imperia e l'entroterra di Savona, l'allerta rossa è stata prorogata fino a mezzogiorno di domani. È una notizia di mezz'ora fa. Significa che in tutti i comuni di queste aree le scuole anche domani resteranno chiuse. A Genova e Savona, salvo variazioni, dalla prossima notte invece l'allerta dovrebbe cessare. Nel frattempo restano in atto le misure precauzionali, chiusi i parchi, a Genova limitata la circolazione della metropolitana, sopraelevata vietata alle moto. Nelle zone più a rischio paratie, a difesa dei negozi, alcuni esercizi commerciali di via Ferreggiano e della zona di Marassi oggi sono chiusi. Lungo la costa, come dicevo in apertura di collegamento, il vento soffia a raffiche fortissime, il mare è molto mosso. E per il momento da Genova è tutto, Simone, ti restituisco la linea. E grazie a Andrea Ferro. Dunque torneremo sul maltempo e su queste alluvioni più avanti. Veniamo intanto alla politica con il caso De Luca da una parte e quello delle firme false per i 5 Stelle dall'altra, che animano il dibattito. Inchieste ed esposti avvelenano il clima politico. A 10 giorni dal referendum, Matteo Renzi oggi interviene a sostegno di Vincenzo De Luca. Per il Premier gli attacchi delle opposizioni nei suoi confronti sono solo un diversivo per non entrare nel merito della riforma costituzionale. Il governatore della Campania è finito al centro delle polemiche dopo l'incontro con 300 sindaci campani, nel quale avrebbe fatto pressioni chiedendo loro di offrire agli elettori anche gite in barca e fritture per sostenere il sì al referendum. Per valutare la sua posizione, la Commissione Antimafia ha chiesto informazioni urgenti alla Procura di Napoli, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo. Ad alimentare le polemiche politiche sono anche le inchieste sulle firme false che a Palermo e Bologna coinvolgono diversi esponenti del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo un regolamento interno che non fa sconti a nessuno e per questo abbiamo chiesto la loro autosospensione. Il Partito Democratico invece ieri ha promosso De Luca commissario della sanità campana e la replica che arriva stamattina dal grillino Di Maio dopo gli attacchi del PD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo alla parte sul referendum vera e propria, iniziando dal fronte del no. Un no che è da sempre deciso, convinto e responsabile. Ospite di Mix 24, Silvio Berlusconi mette in chiaro la sua posizione escludendo ogni ipotesi secondo cui starebbe cambiando idea sull'indicazione di voto al referendum, ma ribadisce la volontà di sedersi al tavolo con Matteo Renzi per ridisegnare l'Italicum, quanto alla possibilità che il Premier resti in caso di vittoria del no, risponde così. È assai probabile che Renzi resti perché conserva la maggioranza in Parlamento, una maggioranza diciamo artefatta, ma comunque una maggioranza. Non abbiamo nessun rapporto tra di noi, precisa però Berlusconi. Renzi ci definisce accozzaglia, ma si guardi attorno e veda come è messo lui. Attacca il cavaliere secondo il quale Renzi ha comunque sbagliato mestiere. È certamente un grande lavoratore, solo che secondo me ha sbagliato lavoro. Perché? Che lavoro doveva fare? Quello che lui aveva annunciato di voler fare se fosse andato in area politica, il presentatore televisivo. Ah, lei l'avrebbe assunto subito? Io lo prenderei subito, sì. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo al lato del sì. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Il 4 dicembre sarà una grande espressione di democrazia perché un paese maturo va a votare senza inseguire polemiche e inchieste che animano la discussione. Matteo Renzi cerca di riportare la discussione proprio sulle riforme. Il Premier definisce un evergreen di ogni campagna elettorale l'allarme brogli arrivato dal Movimento 5 Stelle. Interviene anche sul governatore della Campania Vincenzo De Luca. Le frasi su Rosi Bindi sono assolutamente sbagliate, ma i cittadini voteranno liberamente. Il tentativo di buttarla sui brogli o sulle dichiarazioni di De Luca è un diversivo per non entrare nel merito. Il referendum non è su di me, ma in pratica si vota per il superamento del bicameralismo. Ho rispetto per Berlusconi, dice poi Renzi, ma un giorno mi definisce un pericoloso dittatore, un uomo solo al comando, un altro mi dice di restare. E ribadisce ancora una volta, non si vota su di me. A te, Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito. Abbiamo parlato in apertura delle alluvioni che stanno colpendo il Piemonte, che rischiano di colpire dal pomeriggio la Liguria. Beh, c'è un'altra emergenza in Italia, è quella del terremoto. Sono 3 mesi oggi dal sisma che ha distrutto Amatrice, un punto con Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, al microfono di Chiara Piselli. Sono stati 3 mesi e sono 3 mesi difficili, perché diciamo questi 3 blocchi di eventi, no? Il 24 di agosto, il 26 di ottobre e il 30 di ottobre hanno attivato situazioni completamente diverse. Quindi nel momento in cui verso fine ottobre si era data un'impostazione oramai chiara sulla gestione del sisma del 24 agosto, è arrivato il 26 di ottobre e il 30 di ottobre, che ha ampliato notevolmente lo scenario, ha cambiato i meccanismi, ha accelerato ancora di più se possibile le azioni. Il fatto che il 30 di ottobre non ci siano state vittime, cosa che ovviamente è stata ed è molto molto positiva, perché l'attività di soccorso è scattata, abbiamo vissuto momenti drammatici. Questo però ha accelerato moltissimo quelle che sono le richieste anche di risposta del territorio, giuste ovviamente, però ricordiamoci che stiamo parlando di un 6.5, cioè un terremoto che in 36 anni è stato il più grave negli ultimi 36 anni, che impatta su una società complessa. Guadagna il 6,74% in questo momento il Monte dei Paschi nella giornata in borsa, nella giornata nella quale si riunisce una sofferta assemblea per la decisione sull'aumento di capitale. Marco Ferrando del Sole 24 Ore la sta seguendo. Marco, buongiorno innanzitutto, e quali sono le cronache da là? Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Come dicevi, assemblea sofferta ma molto partecipata nonostante questo. Infatti sentirete sottofondo, ci sono alcune centinaia di soci, per lo più piccoli soci, peraltro determinanti per avere il 20% del capitale che serve per costituire validamente l'assemblea. E non è un dettaglio, perché se oggi non si fosse appunto raggiunto il quorum, non si sarebbe potuto votare, quindi verosimilmente approvare il piano da 5 miliardi. La borsa, come dicevi, sembra guardare con discreta fiducia, almeno oggi, alla banca. L'amministratore delegato Marco Morelli poco fa ha detto, presentando l'operazione, che è l'unico modo per tornare a essere leader. Stanno parlando in molti soci, l'idea è che si finirà non prima del tardo pomeriggio, se non addirittura arrivare a sera. Stanno parlando molti soci, solitamente qui l'abitudine era di 10 minuti a testa, in realtà, visto che ce ne sono tanti, il presidente Tononi ha proposto di ridurre a 5 minuti, ma nei fatti nessuno riesce a stare nei tempi, e questo forse dà un po' l'idea di quanto appunto sia sofferto questo momento. I piccoli soci inevitabilmente saranno destinati a essere marginalizzati dal nuovo azionariato della banca. Ti ringrazio, grazie dunque a Marco Ferrando, con quale sicuramente torneremo a collegarci nell'arco della giornata per raccontare questa giornata appunto del Monte dei Paschi. È morto ieri sera a Roma, all'ospedale Sandro Pertini, lo scrittore, attore e regista Vittorio Sermonti. Sermonti, che era nato il 26 settembre del 29 a Roma, aveva 87 anni. Sua una rilettura di Dante, che aveva avuto grande fortuna, portando anche un grande pubblico a seguire le sue pubbliche letture. Ne aveva parlato con Daniele Biacchessi, sentiamo. Si aspettava così tanta gente ad ascoltarla, a leggere Dante? Io mi rivolgo alle singole persone, do del tu al mio pubblico e non del voi. Si stabilisce un rapporto tra quello che io penso, quello che io dico, la mia voce, il transito delle parole di Dante e le persone nella loro interezza e nella loro unicità. E io ho provato, fin dai tempi in cui insegnavo parecchi decenni fa al liceo, a instaurare questo tipo di rapporto diretto. Poi nel tempo l'ho instaurato leggendo e ragionando su Dante a mia moglie, poi parlandone con quel genio di Gianfranco Contini. Speravo che queste singole persone fossero molto numerose. Così dunque Sermonti. Noi chiudiamo questa prima parte della trasmissione andando a parlare di calcio e andando a parlare soprattutto di Europa League, giornata importante per le italiane. Dario Ricci, ciao. Eh sì, hai proprio ragione Simone, perché siamo alla penultima giornata della fase a gironi, arriviamo dallo 0-0 del Napoli in Champions, che comunque mette un po' a rischio la qualificazione agli ottavi dei partenopei, che nella prima fase del loro girone invece stavano volando, e chiediamo al quartetto italiano di Europa League di non mancare davvero la seconda fase per le ben note questioni di ranking nazionale nella classifica UEFA. Allora, le gare di oggi alle 19, Fiorentina, PAOK, Salonicco e Viola sono di fatto in testa alla classifica del gruppo J e quindi vicinissimi alla qualificazione. Sempre alle 19 invece di scena in Israele, sul campo della Hapoel Beersheba, che lo ricorderai ha vinto qui a San Siro, è l'Inter, ultima nel suo gruppo, nel gruppo K, ma c'è soprattutto curiosità per la seconda uscita dell'Inter targata Pioli dopo il 2-2 del derby. Alle 21.05 c'è Roma-Victoria Pulsen, con la Roma davvero a un passo, in caso di vittoria otterrebbe già gli ottavi di finale, e poi sempre alle 21.05 Athletic Bilbao-Sassuolo, Sassuolo che è in coda in un gruppo F equilibratissimo. Peccato perché gli emiliani erano partiti davvero bene proprio col bel successo sui baschi, adesso tutto è in discussione, serve una prova con tanta garra proprio in casa dell'Atletic. Vedremo dunque che cosa succederà questa sera, questo pomeriggio con le italiane in Europa League. Intanto grazie a Dario Ricci, di questo ovviamente si tornerà a parlare anche oggi alle 14 in tutti i convocati. No, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, che sarà un giro per l'Italia inevitabilmente un po' particolare, nel senso che andremo a toccare quei luoghi che in questi minuti, proprio in questi minuti, sono colpiti dalle alluvioni e dalle esondazioni dei fiumi, e cercheremo di capire com'è la situazione e come si potrebbe evolvere. E poi il nostro giro per l'Italia proseguirà rimanendo in Piemonte, a Torino, dove è in corso una protesta di profughi e migranti in quello che è il villaggio olimpico dopo il lancio di alcune bombe carta contro le palazzine. Tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione vi abbiamo dato conto di quello che sta succedendo a causa del maltempo in Liguria e in Piemonte. Tra un attimo ci torneremo, ci siamo occupati del referendum con vicende giudiziarie che si affiancano, da una parte quella che riguarda il presidente della Campania Vincenzo De Luca e dall'altra quella delle firme false per le comunali per i 5 Stelle, tanto in Sicilia, a Palermo quanto a Bologna. Ci siamo occupati dell'Assemblea del Monte dei Paschi di Siena, ci siamo occupati della morte di Vittorio Sermonti e poi di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo in questa giornata inevitabilmente dal Piemonte, per quello che sta succedendo, per la violenza di questa ondata di maltempo che ha colpito e che ha portato anche all'esondazione dei fiumi, come per esempio il Tanaro. Andiamo in quello che al momento è il centro più colpito, almeno apparentemente e appunto almeno per il momento, ed è Garessio, e siamo in provincia di Cuneo, siamo in linea col vice sindaco Bruno Bologna. Vice sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Garessio, giusto per dare un'idea agli ascoltatori di dove ci troviamo, siamo in provincia di Cuneo, ma in realtà siamo a una manciata di chilometri dal mare, alle spalle della Liguria, una quarantina di chilometri dal Benga circa. Dal Benga, sì. Siamo in Alta Val Tanaro. Sì. Sta ancora diluviando, è esondato il Tanaro. È esondato, sì, ormai è in tutta la vallata praticamente. Garessio ha sovrastato già il ponte centrale, il vecchio ponte, e adesso anche gli affluenti del Tanaro stanno esondando. È una situazione di emergenza, bisogna che si intervenga il più presto possibile anche dichiarato stato di emergenza, perché è una cosa impossibile quello che sta succedendo. Il suo sindaco ha evocato l'alluvione del 94, quella nella quale... Ma questo direi che è ancora maggiore, la portata è ancora maggiore del 94. Lo ricordo agli ascoltatori, nel 1994 morirono 70 persone, ci furono 2600 sfollati. Tutto lungo il letto del Tanaro, cosa che a Garessio non ci furono vittime, ma moltissimi danni, cosa che si sta verificando di nuovo terribilmente adesso. Vice sindaco, la popolazione è in sicurezza in questo momento? La popolazione è messa in sicurezza, sono state chiuse tutte le strade, gli attraversamenti dei ponti sul Tanaro, chiaramente ci sono danni ingenti alle cose, perché la borgata Borgo Ponte è completamente inondata. Capisco che il momento dell'emergenza, vice sindaco, forse non è nemmeno il momento di toccare questo argomento, però mi sento di farlo e secondo me è necessario farlo. I lavori dopo l'alluvione del 94 sono stati fatti sugli argini dei fiumi oppure no? Sono stati fatti sugli argini dei fiumi, sì, sono stati fatti gli argini, di per sé hanno tenuto. Noi abbiamo un grosso problema che è rappresentato dal ponte ottocentesco centrale del paese, che è a due arcate, e quindi questo comporta che ci sia un'ostruzione troppo grande per quanto riguarda, mentre tutti gli altri ponti, sono quattro i ponti in Garesio, non hanno arcate centrali, per cui defluisce molto meglio l'acqua. Qui purtroppo ovviamente siamo a cosa. La ringrazio, grazie a Bruno Bologna, vice sindaco di Garesio. Ci spostiamo di una decina di chilometri o poco più e andiamo ad Ormea, dove c'è il sindaco Giorgio Ferraris. Sindaco, buongiorno, com'è buongiorno. La situazione da voi? Da noi la situazione è brutta, purtroppo continua a piovere, abbiamo raggiunto quantità che per intensità sicuramente superiori a quelle, io ero già sindaco quando c'è stato l'alluvione del 94, quindi me la ricordo bene, così dico, e abbiamo il Tanaro che sta esondando in tutti i punti dove, nonostante avessimo rafforzato e cresciuto in molti punti le arginature, è esondato quasi dappertutto, non ha fatto i danni del 94, perché comunque un po' di protezioni di cosa si erano fatte. In più questa volta abbiamo un dramma sulle strade che collegano le strade di montagna, che collegano le frazioni al capoluogo. Noi abbiamo 196 chilometri di strade comunali e stiamo chiudendo quasi tutte una dopo l'altra, perché su tutte ci sono frani, smottamenti, in certi punti la strada è proprio sparita. Abbiamo avuto anche la piazza principale del paese che è stata scalzata dal torrente Armella e siamo riusciti a mettere in salvo gran parte delle macchine, ma sono ancora finite dentro una macchina e un camion, senza danni alle persone, sì, per fortuna. Sì, abbiamo visto su internet, stanno circolando le immagini della voragine che si è aperta da voi, appunto, dove c'è una macchina sostanzialmente infilata dentro. Sì. Stessa domanda che sì, ho rivolto al vice sindaco prima, la popolazione in sicurezza? La popolazione è in sicurezza, abbiamo evacuato il palazzo che si trova proprio lì sulla piazza, più di 30 famiglie, e alcuni sono andati da dei parenti, altri li abbiamo messi, probabilmente siamo proprio qui all'Albergo Italia. Teniamo sotto controllo tutta la zona, diciamo, a fianco del Tanaro, perché se c'è il caso evacueremo anche tutte quelle abitazioni lì. Grazie a Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea, e per un quadro generale sulla situazione in Piemonte abbiamo in linea l'assessore alla protezione civile Alberto Valmaggia. Assessore, buongiorno anche a lei, ci dia un'idea generale di quello che sta succedendo. Abbiamo sentito due luoghi, due sindaci, però ci dia un quadro generale. Sì, buongiorno a voi. La situazione in Piemonte è più critica sicuramente nella zona della Val Tanaro, come hanno raccontato gli amici sindaci di Ormea e Garesio, sta diventando preoccupante nella zona torinese, quindi dal cuneese stiamo passando nel torinese. C'è una preoccupazione sull'ondata di piena, perché la Val Tanaro poi transita in pianura da Alba, da Asti, da Alessandria, e nel 94 fece dei disastri anche in queste città, quindi c'è un'attenzione di prevenzione per la giornata di domani, stanotte, domani, quando sono previste le piene in queste città. Il resto del Piemonte, quindi tolto il cuneese, dove la situazione è grave, il torinese, che sta diventando con qualche punto di preoccupazione, il nord e anche l'alessandrino sono sotto controllo, sono sotto, diciamo, controllo, sotto livelli di guardia. E il Po, assessore? Il Po è al momento sotto controllo, diciamo il Po riceverà le piene del torinese, però al momento, e poi anche del Tanaro più a valle, però al momento è sotto controllo. La preoccupazione è il perdurare delle precipitazioni nella nottata e nella giornata di domani, quindi si continua a monitorare, la centrale operativa e da ieri l'altro che è attivo H24. Quindi c'è un rischio che anche il Po esca dagli argini? viene monitorato, perché le previsioni di ARPA danno ancora intensità abbastanza rilevanti anche sul torinese, dove c'è già stata qualche piccola suo affluente, ecco, piccola uscita nelle prossime ore, nella prossima notte, quindi si fa molta attenzione anche sul Po, certo. La ringrazio, grazie Alberto Valmaggio, assessore alla protezione civile della regione Piemonte, e in questo quadro ci spostiamo in Liguria con Federico Grasso, c'è del centro funzionale ARPAL, che per il terzo giorno consecutivo torna da noi, ma insomma l'abbiamo preso come voce e come racconto di quello che sta succedendo dal punto di vista meteorologico, perché ci sembra di capire, Grasso, che il peggio per la Liguria debba ancora arrivare. Esattamente, buongiorno a tutti. In questo momento la situazione peggiore la stiamo registrando in Val Bormida, con una punta di circa 50 mm caduti nell'ultima ora a Calizzano, dove si registrano appunto allagamenti diffusi. Abbiamo avuto una mattinata che ha interessato prevalentemente l'Imperiese, con cumulate che hanno superato abbondantemente i 100 mm nell'arco di poche ore, e le prime esondazioni locali di alcuni torrenti, di alcuni rii, come che hanno interessato anche i bacini un po' più grandi, Argentina, Rocha, Armea. Sono state esondazioni abbastanza localizzate, e in questo momento invece i torrenti dell'Imperiese sono lievemente in discesa, anche se si mantengono su livelli molto alti. Le precipitazioni sono tuttora in corso praticamente su tutto il territorio regionale, con questa maggiore intensità in Val Bormida. Le previsioni per le prossime ore parlano di ancora nuovi rovesci, in particolare sul ponente regionale, dove resta l'allerta massima, che è stata prolungata già l'allerta rossa fino alle 12 di domani sull'estremo ponente e appunto sulla Val Bormida. La ringrazio, grazie a Federico Grasso del centro funzionale ARPAL anche per questo aggiornamento di oggi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione riprendiamo il nostro giro per l'Italia cambiando argomento. Ci occuperemo di immigrazione, andremo a Torino e poi in Veneto. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il maltempo in primo piano, esondato il Tanaro in Piemonte, come avete sentito gli amministratori locali ci dicono è peggio del 94, riferendosi all'alluvione nella quale ci furono 70 morti. Notizie di pochi istanti fa: un masso è caduto sull'autostrada A8 francese all'altezza di Roquebrune, tra i caselli di Ventimiglia e Monte Carlo. Potrebbe essere chiusa la carreggiata tra il pomeriggio e domani, dovrebbero arrivare dei peggioramenti anche in Liguria. Il fronte politico: nel caso De Luca per il PD e le firme false nei 5 Stelle che animano il dibattito. Berlusconi dice intanto a Radio 24 il mio no è convinto e indifferente se Renzi resta oppure no. Al via l'assemblea del Monte dei Paschi di Siena, che deciderà anche sull'aumento di capitale. La fondazione fa sapere: decideremo se aderire solo dopo appunto il referendum. Violenza e rabbia di migranti e profughi a Torino dopo il lancio di bombe carta contro le palazzine del villaggio olimpico. Tensioni, la polizia interviene. Ci arriveremo tra un attimo. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con un occhio sempre attento a quello che succede nelle zone colpite dall'alluvione. Ci occupiamo adesso di immigrazione, di profughi e dei momenti di tensione che ci sono stati tra la serata di ieri e oggi a Torino. È successo che 200-300 più occupanti delle ex case delle Olimpiadi di via Giordano Bruno sono scesi in strada. Si tratta appunto di immigranti, profughi, richiedenti asilo. Sentiamo un po'. Bottiglie lanciate, cartelli sradicati, cassonetti dell'immondizia ribaltati. Federico Genta, cronista della Stampa, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, tu hai seguito tutte queste vicende, sia ieri sera sia stamattina. Che cosa è successo? È successo che la tensione è salita alle stelle dopo che qualche giorno fa c'era stata un'aggressione all'interno di un bar di Torino, poco lontano dalle palazzine olimpiche, che aveva coinvolto una parte degli ultras del Torino, della squadra di calcio del Toro, e alcuni profughi che vivono nelle palazzine occupate. Da lì è scattata una rappresaglia che è partita prima in una sala scommesse a un centinaio di metri da palazzina e un'ora dopo proprio davanti alle palazzine. Sono state lanciati dei grossi petardi, delle bombe carta e 200-300 profughi sono scesi in strada per protestare. Questa mattina c'è stato di nuovo un grosso problema quando un gruppo decisamente minore, 40-50 persone, sono di nuovo scese in strada perché sostengono che questi attacchi non sono stati difesi dalla polizia. Tutto si inserisce in una tensione che sta vivendo il quartiere proprio per questa occupazione. Alle palazzine Moi sono alloggiate più di mille persone, più di mille stranieri, e proprio in queste settimane si sta... Ma perdonami Federico, una cosa importante, sì. Ma è una struttura di accoglienza regolare o sono appunto palazzine che vengono occupate? Sono le palazzine olimpiche dei giochi invernali di Torino che sono state occupate abusivamente e che devono essere sgomberate. La struttura sta proprio organizzando in queste settimane, dovrebbe chiudere entro dicembre, proprio il piano di sgombero definitivo. Sono quattro complessi dove vivono tutte queste persone, alcuni addirittura lavorano, altri sono completamente irregolari, quindi bisognerà fare proprio un censimento per capire come muoversi nel modo meno difficile, diciamo. Per cui questi episodi arrivano già in una situazione di base abbastanza complessa. Ecco. Naturalmente, e con una certa tensione che attraversa il quartiere, ovviamente, da questo punto di vista. Il sì, resto del quartiere. Parliamo di un quartiere piuttosto centrale di Torino, non è un quartiere periferico, per cui è un quartiere dove vivono famiglie anche benestanti, dove non c'è un problema culturale legato alla presenza di profughi, solo che il numero è molto alto, le tensioni, episodi di violenza ci sono già stati e quindi un fatto di questo tipo, vedere queste persone che scendono in strada, buttano i cassonetti, rincorrono con le spranghe di ferro i residenti, è chiaro che crea ancora più allarme. Ci mancherebbe altro. Grazie Federico Genta, cronista della Stampa. Le sue cronache le trovate anche sul sito della Stampa, oltre che sul Quotidiano. E noi continuiamo a parlare di migranti e profughi. La vicenda ve l'avevamo già raccontata, è la vicenda di Cona, dove in un'ex base missilistica, e andiamo in Veneto, ci sono tra i 1200 e i 1500 migranti o profughi, non si sa esattamente nemmeno quale sia il numero, a testimonianza di una gestione dei richiedenti asilo, dei migranti, che oggettivamente piuttosto carente. Aurora D'Agostino è un avvocato di Giuristi Democratici ed è stata tra l'altro ieri in visita nella ex base missilistica di Cona. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Che situazione ha trovato? La situazione che ho trovato, io premetto che io sono andata due volte in questa base, sono andata la prima volta in aprile di quest'anno, il 23 aprile, e sono tornata appunto ieri. Nella visita del 23 aprile la situazione era già molto significativa, pesante, sia dal punto di vista di servizi, di ammasso e via dicendo, e c'erano circa 500 richiedenti asilo, profughi presenti nella struttura. Ieri il numero era esattamente triplicato, perché all'incirca ci sono 1500 persone all'interno della stessa struttura, che è una struttura in parte muraria, che era appunto quella della base, quindi con le camerate molto strette tra l'altro e in pessime condizioni. E oltre alle camerate, in realtà il grosso dei richiedenti asilo, perché sono presenti nella struttura, sono ammassati invece in delle grandi tensostrutture, ne hanno fatte tre di nuove, che hanno messo nella base e nell'area della base, che è molto isolata tra l'altro, è proprio molto, è difficile anche da raggiungere e ovviamente è difficile raggiungere i centri abitati, sì. Tranne appunto Cona, che sono 190 abitanti. Tranne appunto Cona, che conta 190 abitanti. Queste tre penso strutture sono enormi, cioè sono enormi, sono 400 metri quadrati credo, e ci sono ammassate dentro 380 persone per penso struttura, capiamoci. L'altra penso struttura che c'era già nella precedente visita era quella della cosiddetta sala mensa. Sì. Questo è un dato che mi ha colpito veramente molto, la sala mensa è stata completamente svuotata, non ci sono più tavoli, sì. Non ci sono più sedie, non c'è più niente, c'è soltanto la distribuzione dei pasti che viene fatta da mezzogiorno alle tre, e questo per capire anche la durata, la dimensione, la quantità di gente che c'è là dentro, certo. Sì, e anche la dimensione, l'attesa, eccetera, e queste persone che sono lì ospitate prendono il loro pacchetto di cibo e se lo vanno a consumare o all'aperto oppure nel loro letto o in qualsiasi altro luogo. Questo è il tema nel della loro letto, nel loro letto, capiamoci, perché lì ognuno ha diritto esattamente solo a un letto, perché non ha nient'altro, non ha neanche un armadietto per capire dove mettere le cose. Il letto è la loro residenza, e infatti la stragrande maggioranza delle persone sta lì a bivaccare a letto, perché null'altro si può fare nella campagna di Cona Padovana. Certo. Allora io la ringrazio Aurora D'Agostino, noi dobbiamo chiudere, per essere stata con noi e per averci raccontato questa situazione, perché ieri è stata là, e magari nei prossimi giorni sentiamo anche di nuovo il sindaco di Cona, perché là il problema effettivamente c'è. Considerate tra l'altro che la gestione di questo centro dell'ex caserma è affidata ad una cooperativa sulla quale in questo momento sono aperte due indagini a Padova, una per omesso controllo e violenza sui migranti e l'altra per falsificazione dei documenti per le gare d'appalto. Magari ci torneremo, perché è una vicenda che è abbastanza rappresentativa di come funzionano certe cose. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.